Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, si è svolto in questi giorni a Davos il World Economic Forum, la sfilata dei potenti di tutto il mondo che si trovano sulla montagna incantata di Magnana Memoria per discutere del futuro del mondo, ma soprattutto, ho l'impressione, dei propri affari. Ma quanto sono davvero potenti questi potenti della politica, dell'economia e della finanza che si sono trovati a Davos in questi giorni? Forse meno di quanto loro stessi pensino o sperino. Lo sostiene nel suo ultimo libro un ospite fisso del forum di Davos, e cioè Moisés Naín, un grande esperto di politica internazionale, venezuelano d'origine, ormai statunitense d'adozione, di cui viene pubblicato da Mondadori il libro La fine del potere, 394 pagine, 20 euro, tradotto da Laura Santi e Laura Tasso. Il libro parte dal forte divario che c'è appunto tra la percezione e la realtà del potere. Si pensa che esercitare il potere significhi chissà quale possibilità di intervenire, e invece ci si accorge molto spesso che queste possibilità sono molto limitate. E Naim cita qua un autorevole politico tedesco, l'ex ministro degli esteri Fischer, il quale scrive che sin da giovane ho sentito il fascino e il richiamo del potere. Uno dei più grandi shock della mia vita è stato scoprire che tutti gli imponenti palazzi e gli altri simboli del governo erano di fatto luoghi vuoti. L'architettura imperiale degli edifici governativi dissimula quanto sia limitato nella realtà il potere di coloro che vi lavorano. E quindi un libro sulla decadenza del potere, studiata attraverso le cause, le manifestazioni e le conseguenze. Conseguenze che, dice Naim, riguardano tutti, a partire da quello che egli chiama il vasto e sempre più numeroso ceto medio. Il libro parte con un paragone suggestivo, il gioco degli scacchi, un gioco affascinante perché, come ha spiegato un campione statunitense che è diventato maestro di scacchi a 12 anni, maestro di scacchi è una delle più importanti onorificenze, dei più importanti titoli di quella disciplina, il gioco degli scacchi piace proprio perché si impone all'altro giocatore quello che egli deve fare. E, commenta Naim, è difficile trovare un'affermazione più chiara del desiderio innato di potere. Ma anche negli scacchi il potere sta cambiando. I campioni non sono più tutti russi, durano in carica molto meno di prima, devono fare i conti con concorrenti di tutto il mondo. Un po' l'innovazione tecnologica che consente di moltiplicare l'opportunità di giocare, e un po' anche la contrazione della geografia ha reso tutto molto più facile, per esempio girare il mondo e partecipare ai tornei. Ed esattamente quello che sta succedendo nel mondo reale, sul quale adesso interroghiamo l'autore. Buonasera a Moisés Naím. Buonasera, grazie dell'invito. Moisés Naím, lei parla nel suo libro di decadenza del potere. In che senso usa questo termine? Perché il potere è più distribuito o perché è meno efficace? Perché è più distribuito e perché è meno efficace. Cioè, ci sono più protagonisti, ci sono più centri che hanno il potere, è molto più disperso, diffuso, ma anche è più difficile di usare, è molto più limitato, chi ha il potere ha più limitazioni e poi diventa molto più difficile di tenere, si perde con più velocità, più frequentemente, più effimero. Ma la dispersione del potere in sé potrebbe essere un fenomeno positivo, in fondo molti democratici liberali vorrebbero un potere sempre più disperso perché più controllabile. È così, e nel fondo sto parlando del libro, si parla delle tendenze che credo che siano chiaramente positive. Stiamo vivendo in un mondo di più possibilità, di più opportunità, dove gruppi di giovani possono lanciare una nuova compagnia e diventare importanti nel mercato, dove un altro gruppo di giovani può iniziare un movimento politico, dove si possono creare iniziative per aiutare altri, dove si può diventare internazionali e connessi molto più facilmente, dove gente che non ha avuto mai la possibilità di essere, formare parte delle decisioni è inclusa. E ci sono una lunga lista di ragioni per essere ottimisti. Ecco, lei indica tre ragioni per le quali il potere ha perso incisività, tre rivoluzioni, quella del più, quella della mobilità e quella della mentalità. Di queste tre rivoluzioni, secondo lei, qual è la più sorprendente? La sorpresa che ho avuto discutendo queste cose è come la gente è molto sorpresa dal fatto che abitiamo in un mondo dove le cose stanno migliorando in tutti i sensi, stiamo abitando in un mondo meglio del passato. La rivoluzione del più è la rivoluzione di una abbondanza di tutto, basta vedere, c'è più gente, ma anche c'è più possibilità, c'è più qualità di vita, non distribuita bene nel mondo, certamente, ma è un mondo di più abbondanza che ha conseguenze molto importanti sul potere. E un capitolo del libro si intitola Chi saranno i padroni del mondo? Ecco, come si stanno delineando i nuovi equilibri del potere nel pianeta? Una delle risposte è che non è più facile trovare e identificare chi è il padrone del mondo, come nel passato c'era la sfera dell'Unione Sovietica, la sfera degli Stati Uniti, i punti di influenza o le grandi aziende che dominavano monopolisticamente un settore. Quello che stiamo vedendo nel mondo oggi è che ci sono, come ho detto prima, c'è una proliferazione di punti di potere, di compagnie, aziende, organizzazioni, anche individui che hanno individualmente molto potere. E non è più facile dire il padrone del mondo X o Y, se diventerà la Cina o diventerà l'Asia, non c'è dubbio che il potere sta andando più verso di là, ma anche loro avranno i limiti nell'uso del potere. Lei nota che questa frammentazione, questa dispersione del potere avviene anche a livello micro, per così dire, anche a livello delle famiglie, insomma sono molto cambiati gli equilibri di potere nella vita quotidiana di ciascuno di noi. Non c'è dubbio, è nel mondo è molto più profonda in tutte le parti, parlo nelle tre rivoluzioni, come l'hai detto, la rivoluzione del più, della mobilità, c'è anche la rivoluzione della mentalità, un profondissimo cambio di aspettative, aspirazioni, di valori, di tolleranze per cose che nel passato non si tolleravano facilmente e viceversa anche. Tutto il rapporto con l'autorità, col potere è cambiato, il fatto che stiamo vivendo nel mondo più giovane che sia mai esistito, in questo momento non solo abbiamo più gente che mai nel mondo, però abbiamo più giovani che mai nel mondo, non distribuite bene, ci sono paesi molto vecchi in Europa, in Giappone, Russia, eccetera, però il mondo è il mondo più giovane in età, in media che abbiamo mai avuto e questo in rapporto al cambio di mentalità è anche molto importante, come sappiamo i giovani sono sempre molto meno disposti a accettare passivamente le autorità che vengono definite solamente per tradizione, storia o età. Poi c'è il potere del mercato, molti temono che questo sarà l'unico potere che prevarrà, lei che opinioni ha? Non è vero che non lo stiamo vedendo così, abbiamo visto come durante la crisi finanziaria sono stati i governi a diventare i principali protagonisti, ma anche il mercato continua a essere un importante protagonista. Stiamo anche vedendo come prima quando si parlava del mercato si parlava di poche aziende che definivano tutto, adesso queste poche aziende hanno una concorrenza enorme, tra loro sono in una iperconcorrenza che non li fa essere più sicuri di quello come quello che erano prima. La possibilità di sopravvivere, di essere in esistenza fra 5-10 anni di molte di queste aziende non è così sicura come era prima. Prima, quando un'azienda arrivava al punto massimo del suo mercato, della sua industria, era difficile immaginare che sparisce o che avrebbe un declino nella sua influenza di mercato. Oggi stiamo vedendo che i cambi, la dinamica aziendale è una velocità, di una profondità e ci sorprende ogni momento. Ecco, ha parlato lei di governi adesso. Quale sarà quindi il ruolo della politica? Avrà più potere o meno potere la politica nel mondo che si prepara? Sarà una politica molto differente. Nel libro faccio il pronostico che stiamo alle porte di una grande ondata di innovazione politica. Già la stiamo vedendo, c'è un'effervescenza in tutte le parti. Se uno pensa all'innovazione, il tutto. Negli ultimi 20 anni abbiamo trasformato la maniera come viviamo, viaggiamo, compriamo, ci comunichiamo, lavoriamo, ci sono state innovazioni di tutto, abbiamo decodificato il genoma umano, abbiamo scoperto più corpi celesti, più satellite, più stelle negli ultimi 20 anni, negli ultimi 200 anni, in fisica, in biologia, ci sono state innovazioni di tutti i tipi che hanno trasformato la nostra vita. L'innovazione forma parte della condizione umana in questi momenti, in tutto, eccetto la maniera come ci governiamo, la maniera del governo, la maniera politica, nella politica, nel governo non c'è stato proprio niente di nuovo da molto tempo. E credo che questo non è sostenibile, credo che è chiaro che si vede per le strade, si vede la dinamica politica, i paesi, che c'è una domanda enorme era un cambio importante la maniera come si fa la politica e come si funzionano i governi, e credo che lo vedremo venire nei prossimi 10-20 anni. I potenti della terra in questi giorni si sono riuniti a Davos, al World Economic Forum, di cui lei è uno dei protagonisti. Ecco, secondo lei hanno la percezione questi potenti di questo slittamento, di questo cambiamento del potere? Alcuni sì, altri no. I potenti sono tanto differenziati come siamo tutti noi. Ci sono quelli che capiscono e hanno una visione più profonda di quello che sta succedendo, e ci sono altri che semplicemente no. Ma in generale io da 23 anni che vado ad Davos ogni anno, io vedo chiaramente ogni anno come questa idea che il potere non è più quello che era e che ci sono altri attori e ci sono delle limitazioni in quello che può fare chi ha il potere, è una idea che chiaramente esiste, sta nell'aria, e alcuni l'hanno molto chiaramente individuata e altri semplicemente l'hanno come intuizione, ma è là, la idea è certamente chiaramente accettata. Grazie a Moisés Naím, autore de La fine del potere. Buona serata. Grazie a lei. E a questo punto la linea alle informazioni sul traffico. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Domani celebriamo la giornata della memoria, la data nella quale si fa appunto memoria della Shoah. E cominciamo la rassegna di libri dedicati a questo appuntamento con un libro decisamente e coraggiosamente controcorrente, che denuncia il rischio che questa data diventi solo una grande esercitazione di retorica. L'autrice insospettabile, Elena Löwenthal, grande studiosa della cultura ebraica, certo non sospettabile appunto di essere una negazionista o antipatizzante del popolo e della cultura ebraica. Il suo ultimo libro si intitola Contro il giorno della memoria, quindi un titolo esplicito con il sottotitolo Una riflessione sul rito del ricordo, la retorica della commemorazione e la condivisione del passato. È pubblicato da DD Editore, 94 pagine, 10 euro. La Shoah è la mia ossessione, scrive l'autrice, ma questo non significa che quella esperienza sconvolgente la riguardi direttamente. No. La Löwenthal dice di sapere bene, cito dal suo libro, di stare dalla parte opposta del precipizio, al di là di un confine che sento terribilmente vicino negli anni del mio tempo, nell'intimità quotidiana con quel dolore, nella condivisione, eppure invalicabile. Non c'è modo di immedesimarsi né spartire l'esperienza della Shoah, che è incomunicabile. E qui la stoccata il 27 gennaio, una data che condiziona, scrive l'autrice, la produzione editoriale, perché tutti i libri che hanno a che fare con la Shoah, compreso questo, si fanno uscire appunto in questi giorni, affollati anche di manifestazioni ufficiali di ogni genere, nel presupposto che la memoria, scrive la Löwenthal, sia equivalente alla conoscenza, conclusione della quale l'autrice dubita fortemente. Infatti scrive: non ho alcuna fiducia né speranza che ricordare e conoscere aiuti ad avvicinare, a sentire quello che hanno sentito e sopravvissuto. Non ho alcuna illusione in proposito, la Shoah non è condivisibile. E allora, senza voler essere necessariamente provocatrice, Löwenthal cerca di spiegare perché il giorno della memoria la disturbi, in particolare non la convince che in pratica questa giornata sia diventata la giornata degli ebrei, tradendo l'opportunità di riflettere sulle responsabilità della Shoah, che non fu certo degli ebrei. Insomma, conclude l'autrice, probabilmente sarebbe meglio il silenzio, non l'affanno, così scrive, di voci, parole, immagini. E proprio in questo affanno adesso cerco di districarmi per segnalarvi alcuni titoli usciti in questa occasione. Il primo affronta proprio il tema sollevato dallo Löwenthal, cioè la capacità e il coraggio di opporsi alla persecuzione voluta da Hitler. Lo fecero per esempio i danesi, la cui resistenza è raccontata nel libro di Bo Lidegaard, che è uno storico e giornalista danese appunto, Il popolo che disse no. La storia mai raccontata di come una nazione sfidò Hitler e salvò i suoi compatrioti ebrei. Pubblicato da Garzanti, 456 pagine, 28 euro, ed è tradotto da Giuseppe Maugeri. Nel 40 la Danimarca, fino allora neutrale, era stata occupata dai tedeschi, e quando si cominciò a diffondere la preoccupazione sulla sorte degli ebrei danesi, il re Cristiano X consigliò di indossare tutti i cittadini danesi la stella di David come risposta all'eventuale obbligo che fosse stato imposto agli ebrei, e nacque da questo la leggenda del re che cavalcava per il suo paese ostentando la la stella di Davide. In realtà non lo fece perché non fu necessario, nessun ebreo in Danimarca fu perseguitato perché non si approvò alcuna disposizione contro gli ebrei, e quando il pericolo nel 43 si fece pressante, tanti danesi fecero di tutto per mettere in salvo i connazionali ebrei che si rifugieranno quasi tutti in Svezia. Insomma, un'esperienza edificante, dice l'autore, quella del popolo danese, i cui leader politici compresero ben presto le terribili conseguenze del pensiero totalitario. E anche la mobilitazione popolare fu esemplare, tanto da rendere unica l'esperienza di quel popolo. Protagonista della persecuzione in Danimarca è Hanna, che troviamo nel libro ispirato a una storia vera, quella raccontata dalla tedesca Miriam Pressler, un libro per Anne, pubblicato dal Castoro, 302 pagine, 15,50 euro, tradotto da Monica Pesetti. Anna è una tedesca che fugge in Danimarca per tentare di raggiungere la Palestina, ma lì sarà sorpresa dall'invasione di Hitler e sarà tra le poche a essere internata al campo di Theresienstadt. Qui, assieme a 5 amiche, darà vita a un gruppo deciso a non cedere fin quando saranno trasferite, grazie all'intervento della Croce Rossa, in Svezia, da dove la protagonista avrebbe poi raggiunto Israele, dove morirà nel 2006 e dove le è stato dedicato un kibbutz. Un sussulto di coscienza troviamo in un bel romanzo, quasi una novella lunga, di uno scrittore francese che scrive appartato sulle montagne, Hubert Mengarelli. Il libro si intitola Un pasto in inverno, è pubblicato da Nutrimenti, 110 pagine, 12 euro, ed è tradotto da Federica Romanò. Tre militari tedeschi di stanza in Polonia hanno il compito di compiere le retate in cerca degli ebrei. È un compito che svolgono sempre più malvolentieri. All'inizio del libro li troviamo a partire di mattina presto, a digiuno, in un clima raccapricciante, pensando ai propri affari, alle proprie famiglie, più che non alla cattura degli ebrei. A un certo punto ne troveranno uno che porteranno con sé in una casupola, dove cercheranno di organizzare un pasto, e la preparazione di questo occupa praticamente il romanzo o la novella. Poco a poco i tre recuperano le forze, ma hanno difficoltà a tenere acceso il fuoco, devono bruciare la porta che serve a isolare l'ebreo, che diventa quindi uno del gruppo. A un certo punto gli daranno addirittura da mangiare, finché si porranno il problema se sia proprio giusto portarlo con loro e farlo giustiziare, e uno dei tre propone di lasciare andare il prigioniero per poter dire a se stessi dopo di aver salvato almeno un ebreo. I tre non sono degli eroi, ma proprio la loro normalità e l'indifferenza agli ordini ricevuti rende ancora più credibile e sconvolgente il dilemma morale che segnerà la fine di quel pranzo in una baracca polacca. Una testimonianza di come sia possibile celebrare la giornata della memoria con uno stile libero e insolito è quello dello scrittore Paolo Nori, che raccoglie tre discorsi in occasione di altrettante edizioni della manifestazione Un treno per Auschwitz, organizzato dalla Fondazione Fossoli. Il libro si intitola Si sente, Marcos y Marcos, 132 pagine, 12 euro. Sono tre discorsi nello stile colloquiale che caratterizza Nori e che lo rendono scrittore particolarmente originale, anche per la ricchezza dei temi e degli spunti che il tono discorsivo gli consente. Qui non si parla solo della Shoah, anzi se ne parla relativamente poco, per affrontare tanti temi connessi, dal difficile rapporto con la storia con la quale ci abituiamo a convivere al sentimento della vendetta. Ambientato ad Auschwitz e Birkenau è la storia vera raccontata dallo spagnolo Antonio Iturbe, La biblioteca più piccola del mondo, è pubblicato da Rizzoli, 484 pagine, 18 euro, tradotto da Stefania Maria Ciminelli e da Stefania Fantauzzi. E qui si parla di un'esperienza particolare, quella vissuta dai bambini del blocco 31, un sito apparentemente ben tenuto per ingannare gli ispettori della Croce Rossa, e dove addirittura è stato organizzato una scuola con una biblioteca micro ricca di ben 8 libri che rappresentano un autentico tesoro da difendere a tutti i costi, nonostante le bruttissime condizioni fisiche dei libri, tra i quali c'è di tutto un po', da un atlante geografico a un corso di lingua russa. E la ragazzina Dita Kraus diventerà la custode, pronta a rischiare la vita pur di non far distruggere e disperdere dai tedeschi questa biblioteca. Una ragazzina che dimostra di avere un legame speciale con i libri, una sorta di complicità che trasforma i libri in un mondo intero. E l'ex bibliotecaria, l'ex ragazzina Dita, ancora oggi vive in Israele dopo la sua terrificante esperienza nei campi, dove aveva conosciuto anche Anna Frank. Poi c'è uno scrittore italiano, Patrick Fogli, che ci parla di Émile Reimann, un ebreo francese deportato anche egli ad Auschwitz, nel libro Dovrei essere fumo, pubblicato da PM, 292 pagine, 15,50 €. Da Auschwitz il protagonista esce vivo, ma scrive l'autore con la consapevolezza del baratro, come dice all'esordio del libro, perché dopo quell'esperienza naturalmente la vita in realtà è tutta un'altra cosa, colma anche di sorprese, come quella che dominerà l'ultimo tratto della vita di Émile, con un passato di agente segreto. E la storia presente si interseca con i ricordi della retata, della deportazione, della prigionia, quasi a significare il destino di un uomo, scrive l'autore, che ha vissuto due vite in due mondi diversi e che di quei mondi è l'anello di comunicazione. Ricorda anche le parole con le quali l'autore conclude il libro, che in qualche misura possono ricollegare a quanto diceva la Leventhal. Secondo Fogli, infatti, scrivere sulla Shoah in giorni scettici, superficiali e troppo spesso inutili come i nostri non è solo un esercizio di memoria o il bisogno di mettere su carta una storia che nasce molto da lontano. Vorrei che servisse a riaffermare, aggiunge, una piccola parte di verità, il frammento di verità molto più grandi che, come dovrebbero essere per tutte le storie importanti, le storie che ci rendono chi siamo vanno tramandate per sempre. La fatica è il primo alleato di chi nega. Il confettino. Vi segnalo sul tema un libro di Neil Bascom, un giornalista e saggista americano, che ha scritto un libro sulla cattura di Adolf Eichmann, uno dei materiali esecutori dello sterminio degli ebrei. Un libro che ha avuto un enorme successo nel suo paese, tanto da spingere l'autore a prepararne un'edizione abbreviata, corretta, per ragazzi, che si chiama Nazi Hunters, l'avventurosa cattura del criminale nazista Adolf Eichmann. È pubblicato da Giunti, 220 pagine, 6,90 € ed è tradotto da Leonardo Taiuti. Quindi è una versione adattata e ridotta di un libro che ha impegnato diversi anni l'autore, il quale ha girato mezzo mondo, stabilito contatti col Mossad, compulsato molti archivi in Germania, non soltanto, per raccontare la storia dell'ufficiale che pianificò lo sterminio, che venne catturato, vi ricordo, a Buenos Aires nel 60, per essere poi giustiziato dopo il processo che si svolse a Gerusalemme l'anno successivo. L'altro libro che segnala i ragazzi è uno che si rifà a una storia notissima, quella della lista di Schindler, che torna nel libro di Angela Krumpen, Il violinista di Schindler, storia di un'amicizia, pubblicato dalle Pauline, 190 pagine, 9,90 €. Qui troviamo una ragazzina e uno scampato all'olocausto, molto colpita dal film di Spielberg, che fanno amicizia perché accomunati dalla passione per il violino, che il secondo, il più vecchio, dovette abbandonare quando fu appunto deportato ad Auschwitz, da dove si sarebbe salvato, unico della famiglia, proprio per essere entrato nella famosa lista di Schindler. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Valeria Bernardi in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.